sempre a qualcuno. Aspetta un attimo. Ecco qua. KK. E quindi è così. Ma quando c'è gente a terrorista incompetente, no, non fa. Fanno. Buonasera. Per quale motivo? Al Prestanto, a te famiglia, anche a Claudio, mi sentite tutti e due, ti stavo ascoltando sull'altro canale. Aspetta un secondo, e poi di Daniele un attimo. Ehi, tutto a posto, è da mettere a posto. Daniele, sono in guerra con quello del piano di sopra perché devo piazzare l'antenna nuova e non me ne fa piazzare. Io adesso ce la faccio fuggire da Sassari, non solo che da casa sua. Mi metto una ratta, adesso come ritiro ogni mese li faccio tirare una sussa. Pago gente e lo faccio picchiare forte. No, cosa più a lui, in spese mediche, non ti preoccupare. È rotta. Mi entra come piove, mi entra acqua e mi fa salire stazionaria a 2,5, non posso modulare, capito? Poi con questo disturbo non va bene, ho comprato, ce le ho qua le antenne pronte a piazzare, c'ho la Game Master, mi ho comprato. No, c'ho la Energy, si chiama, tre radialini, come la mia 27L, deve essere consumato l'anello di sopra dove c'è la bobina, entra da lì l'acqua evidentemente. Quella lì è, hanno quel difetto che si riempiono d'acqua. Per esempio a Marcolino Condor gli è andata bene e sta sempre funzionando. Però a me e a Marco Scorpion si pienava d'acqua e quindi Marco ce l'ha buttata e io ce la butterò lo stesso. Anche da parte di Concetta, che non aveva capito che eri tu. Grazie. Dammi una foto sulla zappa di tuoi figli. E dove sei entrato a lavorare, Daniele? E io non ci sono più entrato perché volevano il patentino della gru e io non ce l'avevo, se no sarei entrato anch'io a lavorare. L'anno scorso no, perché sono stato più all'ospedale che a casa. Immaginare, dove sei di preciso? In che settore? Ho capito. Alle manutenzioni, sì, da. Thank you. scuole, dove aggiustavamo le scuole ultimamente. Sono entrato, scusate, stavo guardando delle cosettine al telefono, interessanti, ma no, non è che ci faccio più caso a queste cose, va bene. Cosa stavo dicendo? E beh, novità Natalie. Ma ah, gli ho tutto tace. Non si fa trovare questo, hai capito? Ma io posso anche trovare altre cose del genere. L'ho visto, però non mi sono potuto fermare in un certo posto, ma hai allagato, no, non c'è problema. Va bene, va bene. Non problema. Prima Puglia si risolve la situazione. Avanti Dani. Ok, alle prossime, ciao Daniele. Ciao Daniele, un abbraccio anche a casa. Gappa, gappa. Allora, Cla. Ehi, aspetta. Ehi, dimmi Natalia, stavo controllando, cioè, gli auguri, queste cose che arrivano al telefono, devo stare in una posizione stabile. Sì, qua. 4,500. C'è gente, dove vai tu? Sì, lo so, li vedo. C'è il volume basso, però io non sono abituato a tenere volumi alti, soprattutto nelle bande amatoriali, a parlare qua, a fare sentire le cose agli altri. Ho abbassato il volume, se poi spengo qua vuol dire passo là, ma se sono qua io faccio una cosa alla volta. Per serietà e per tutto nei confronti degli altri, chiaramente, tutto qua. Va bene, va bene. E K, anda bene Meda. Vabbè dai, sono già le 8, Natale, io ti saluto e spengo tutto invece. Non entro manco dall'altra parte, dai. Vado a cenare, ok? Ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao, auguroni di nuovo a te famiglia, alle prossime. Ehi Natalie, altrettanto a te famiglia, ci sentiamo, grazie, buon inizio d'anno, speriamo che sia meglio di quello dell'anno scorso, ma per come è andato l'anno scorso non mi posso lamentare. Dai, ci sentiamo, ciao ciao.